Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Otto e 36 minuti, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Via telefono, come settimana scorsa, da sponde opposte, noi rispondiamo e parliamo dallo studio di Milano Monterosa. Carlo, invece tu sei in giro, non approfondiamo, sei in giro per l'Italia, dove sei? Ma no, sono in un posto bellissimo, sono ad Ascoli Piceno. Sì. E sono qui per questa importante manifestazione che si chiama I Teatri del Sacro. Sì. E non ho potuto non venire perché ieri ha debuttato uno spettacolo che ho scritto assieme a Walter Leonardi e quindi abbiamo debuttato qui all'interno dei Teatri del Sacro. Molto bello. Si intitola Coma quando fuori piove. È molto complicato, ma non posso lamentarmi perché ne sono l'autore. Adesso sono le 8:37 del mattino, domenica mattina, quindi non è facile far srotolare la lingua. Senti Carlo, la fotografia meteo a questo punto fammela da Ascoli. Una splendida giornata, c'è un bellissimo sole e quindi al momento non rimpiango Monterosa a Milano, al momento. È qua, io mi giro perché devo girarmi per vedere com'è la situazione, sole, molto sole, ventilato, quindi è una giornata quasi ideale fino a questo punto e speriamo che sia così anche nel resto d'Italia. 800 24 00 24, siamo qua per stare con voi, per chiacchierare con voi, per commentare le notizie della settimana, per portare qualche raggio di sole e anche per cercare un personaggio della settimana, il primo che indovina si porta a casa un libro a tema anche oggi. E allora io romperei gli indugi, diamo subito il primo indizio: il personaggio di questa settimana è coraggioso, quindi pensate a qualche cosa che è accaduto negli ultimi 7 giorni, a un personaggio e qualcuno che abbia del coraggio. 800 24 00 24. Ma io penso che noi siamo arrivati a una condizione in cui possiamo ritenere che anche chi si è macchiato dei peggiori crimini e che avrà sempre su di sé non solo la condanna della società, ma la nostra, per quello che vale, condanna la più radicale, dobbiamo riconoscere della possibilità di una morte dignitosa. Questo era il redivivo Fausto Bertinotti, la notizia, ma anche circostanziata perché non c'è nessun via libera alla scarcerazione di Totorina, ma c'è una sentenza della Cassazione che rimanda al Tribunale di Sorveglianza di Bologna la decisione di valutare se, visto le condizioni di salute di Rina, che è in fine di vita, 86 anni da oltre 20 anni in carcere, di differire la pena e quindi non scontare gli ultimi giorni in carcere, ma presumibilmente a casa sua. Di questa questione se ne è parlato tanto durante questa settimana. E io in realtà sono contento che esista in Italia una legge che dica il diritto alla morte dignitosa, però come me ne sono occupato sul mio Facebook, a me la cosa che mi fa strano leggendo questa notizia è che non vediamo mai immagini di Rina sofferente, invecchiato, debole, colpito, e questo credo che invece sia un problema. Sia la televisione, sia la letteratura, le fiction, ci mostrano quasi sempre questi boss potentissimi, sempre che non vengono ammazzati nel fiore dei loro anni, e molti giovani li mitizzano. Io credo che invece farci vedere le immagini del boss, che alla fine è come noi e siamo tutti dei... abbiamo bisogno che ci cambino il pannolino, io credo che sarebbe molto utile. Io penso di sì, no Alessio? Può darsi, perché no? Sentiamo intanto la voce del fratello di Borsellino, Salvatore Borsellino, che è ovviamente molto contrario, ovviamente è contrario a un'ipotesi di differimento della pena a Totò Riina. E io però posso fare una citazione, voglio citare una collega che ha scritto, la faccio mia, la Betta Fiorito, che la salutiamo, ciao cara Betta, ha scritto così, però va detta in romanesco, in romano, perché altrimenti non ha senso, ha detto: ce potevi pensare prima Riina, adesso ciaone. Beh, è un modo anche per così interpretare il sentimento di molti, devo dire. Salvatore Borsellino, se queste notizie corrispondessero alla verità, se qualcuno veramente avesse intenzione di, devo dirlo, purtroppo, di pagare delle cambiali e far uscire Riina dal carcere, allora questa sarebbe la seconda volta che uccidono Paolo Borsellino. I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on, but that train keeps rolling on down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head. Allora, questo è il celebre Johnny Cash con Folsom Prison Blues, ma non parliamo più del carcere per i mafiosi, parliamo di un'altra notizia, perché ormai abbiamo capito chiaramente che il carcere è uno dei luoghi di formazione dei radicalizzati, dei potenziali terroristi, terroristi ISIS di matrice islamica, che spesso entrano in carcere magari per piccoli reati e poi ne escono formati, addestrati, messi in riga da esponenti dell'ISIS o da altre persone che hanno interesse a manipolarli. Che cosa si può fare? Perché questa è una realtà che è ormai emersa molto chiaramente. Noi ce l'abbiamo una buona notizia, qualcuno che sta lavorando per evitare che questo accada ancora. Io do il buongiorno, buona domenica a Gabriella Picco, direttore del carcere minorile Ferrante a Porte di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. C'è un progetto che vi vede coinvolti, non solo voi, perché sì, in realtà è un progetto nazionale, ma voi siete tra i primi in qualche modo ad applicarlo, in particolare all'interno del carcere minorile, per scovare sul nascere potenziali terroristi. Io la dico così, semplificando forse, certo, in qualche modo, però per far capire, con l'aiuto anche degli imam, cioè le guide religiose che normalmente conducono le preghiere all'interno delle moschee, perché sì, questi terroristi ISIS sono terroristi, non dimentichiamocelo, di matrice islamica. Come funziona, come sta partendo questo progetto, dottoressa Picco? Allora, intanto è importante precisare che questo progetto è nato grazie a un interessamento e a una conoscenza che la Garante dei diritti dei detenuti della città di Torino ci ha consentito di fare con il presidente di una delle associazioni islamiche presenti in città, forse tra le più antiche moschee della città, che ha favorito questo incontro che ci ha consentito intanto di conoscerci, di provare a stabilire insieme una serie di azioni da fare per poter far entrare persone qualificate e che possano in qualche modo guidare i ragazzi verso percorsi di religiosità e di cultura islamica. Questo progetto quindi, diciamo, parte da delle cose un po' goliardiche, perché in questo periodo tra l'altro c'è il Ramadan, penso sappiate che il Ramadan ha tutta una serie di riti. Certo, il mese di digiuno. Certo. E però col digiuno ci sono anche dei momenti come quello della colazione serale, che sono momenti importanti dove si mangiano un po' come le nostre feste, no? Le corni e cose particolari. Quindi si partirà con una festa con dei cibi tipici, i cibi tipici che vengono appunto cucinati e consumati durante il periodo religioso, e da lì poi si stabilirà anche un discorso di religiosità, di parlare insieme di religione. Quello che è giusto che venga fatto, come viene fatto da tempo, da sempre, con i giovani, dal nostro cappellano, no? Nelle carceri sapete che c'è un cappellano. Però noi di sappiamo religione anche, cattolica. Certo, noi sappiamo anche, dottoressa Picco, che c'è un progetto anche nazionale che all'interno del quale appunto si cerca di utilizzare queste guide spirituali, gli imam, insomma, per cercare di capire sul nascere se siamo anche di fronte a potenziali radicalizzati, e quindi dà certi segnali che sono il modo magari di leggere il Corano, di interpretare la religione, di vivere anche la socialità con gli altri, anziché farlo fare magari dagli assistenti sociali o dalle guardie come cade normalmente, si utilizza anche l'imam, perché può avere una sensibilità in più, immagino, proprio anche per entrare in tematiche. Una conoscenza anche più approfondita delle tematiche, infatti. Sì, è un accordo, un grandissimo accordo secondo me, che è stato fatto nel febbraio di quest'anno, proprio fra l'Islam e la nazione italiana, no? Firmato dal ministro Minniti, che è stato firmato proprio un patto nazionale per un Islam italiano, un Islam che sia vicino alla nostra anche cultura, no? Che si inserisca in quello che è il sistema culturale italiano, ma che al contempo ovviamente rispetti i canoni della loro origine. Certo. Hanno la cosa bella, diciamo, di questo accordo, io la leggo sotto due aspetti. Intanto tutti i firmatari si sono impegnati a rifiutare qualunque forma di guerra e di terrorismo, e questo significa già un segnale molto importante che viene dato all'argomento. E poi c'è stata un altro, secondo me, importante segnale, che è quello di introdurre le donne imam, che se poco si conosce delle culture arabe, poter consentire alle donne di guidare le preghiere è sicuramente un grande passo avanti, un progresso. La fermo un attimo qua, dottoressa Picco, perché abbiamo le informazioni sul traffico. 800 24 00 24, gli ascoltatori, se vogliono intervenire su questo argomento, tra poco ci ritorniamo. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta. Il primo passo poi si vedrà, e poi si vedrà. Allora, eccoci qua, vi ricordo, cari ascoltatori, che stiamo anche cercando un personaggio della settimana, e il primo indizio che vi abbiamo dato è che è coraggioso, quindi cercate qualcuno che sia coraggioso. Allora, la notizia, siamo in collegamento con la direttrice del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino, Gabriella Picco, è questa: dopo l'accordo tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Islamiche, il carcere minorile di Torino chiede la collaborazione degli imam per prevenire la radicalizzazione di potenziali terroristi che possano cadere nelle maglie della propaganda dell'ISIS e della Jihad proprio all'interno del carcere, perché sappiamo che quello che accade in molte zone d'Europa, direttrice, in alcuni carceri sappiamo che si sta lavorando proprio anche in una fase successiva per qualche modo guarire da questa che è una malattia, possiamo anche considerarla, no? Della radicalizzazione, perché è una deviazione mentale, una forma di follia, non so come vogliamo chiamarla, come sono tutte le forme di terrorismo, che poi hanno delle motivazioni anche politiche, religiose, però poi alla base sappiamo che spesso e volentieri c'è anche una devianza mentale molto importante. Si può guarire, secondo lei, che ha esperienza di minori, da cose di questo genere? Senz'altro bisogna fare un'ottima prevenzione, senz'altro bisogna consentire di dare a questi giovani quello che di fatto poi è lo spirito del nostro lavoro rieducativo all'interno delle carceri, che è quello di conoscerli, è quello di dar loro delle opportunità di vita, di dargli loro delle competenze, ma soprattutto di renderli uomini di fronte alle scelte della vita. La religione può essere uno strumento e un aspetto, ma vale tanto anche la formazione scolastica, la formazione professionale, il curare molto bene l'affettività, perché tanti poi di questi ragazzi che ricorrono poi a queste frange estreme sono ragazzi soli, che non hanno famiglia, che non hanno radici e che trovano in questi gruppi una completezza anche dal punto di vista affettivo. Diciamo che quello che di norma è previsto, che noi facciamo da sempre, no? Da quando le normative lo prevedono, l'aspetto rieducativo della pena investe tutti questi argomenti, e quello che si intende fare è veramente creare dei ragazzi che possono vivere all'interno della società come uomini liberi, ma liberi da qualsivoglia tipo di costrizione, soprattutto mentale, come potrebbero essere anche le costrizioni che poi li inducono a compiere, certo, gesti estremi, come purtroppo accade. E io vi devo dire che vi ringrazio personalmente, credo che ci sia da ringraziarvi per quello che tentate di fare, lei, ma tutti quelli che lavorano nelle carceri italiane. Sì, penso che sia importante, perché sono ambienti molto particolari, sono luoghi che apparentemente sembrano al di fuori della realtà. Molti pensano che una volta chiuse le porte del carcere, dietro a un nuovo condannato, siano finiti i problemi, invece poi lì inizia un'altra storia, che è quella che ci stava raccontando lei, e del resto della riabilitazione. Esatto, lo abbiamo visto tante volte, che proprio passando attraverso il carcere molti di questi terroristi si sono in qualche modo rafforzati nelle loro convinzioni. Quindi speriamo, stiamo a vedere, siamo alla finestra. Questo era uno dei tanti progetti, riguarda il carcere Ferrante a Porte di Torino, carcere minorile. Grazie dottoressa Picco, noi chiudiamo. Grazie a voi. Tra pochi minuti c'è il giornale radio, sentiamo però un'ascoltatrice prima di chiudere. Laura che ci chiama da tutto bene ad Ascoli? Sì, tutto sì. Benissimo qui ad Perfetto, Ascoli, molto bene, sì, sì. Laura da Padova, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti e al tuo ospite. La risposta che mi è venuta così di primo acchito è quel ragazzo extracomunitario che ha salvato quel bambino cinese di 7 anni. Però nel momento stesso in cui l'ho detto mi sono resa conto che era passata già una settimana, per cui... Beh sì. Beh no, però diciamo 7 giorni o forse 8 giorni, perché oggi è domenica, si trattava di sabato scorso, quindi siamo sul filo. Domenica scorsa ancora non si conosceva con precisione, se non ricordo male, esatto, l'identità. Quindi, bravo, ragazzo, vedi, questa è una precisazione molto importante. Da avvocato. Quindi, avendo saputo l'identità soltanto negli ultimi 7 giorni, rientrava Laura tranquillamente, però non era questo il personaggio. Va bene, grazie, buona giornata. Andrea da Riva del Garda, proviamo in 30 secondi a rispondere, vai. Buongiorno. Buongiorno. Secondo me andare a testimoniare under oath, sotto giuramento, dicendo che il Presidente degli Stati Uniti d'America, seppur questo personaggio poco raccomandabile, ci vuole del gran coraggio. Quindi James Comey. Che è? Ricordacelo. Che è l'ex direttore dell'FBI. Assolutamente. Che sta avendo un braccio di ferro con Trump, ma grazie per averci ricordato la notizia. Non era lui però il personaggio coraggioso che cerchiamo. 800 24 00 24, dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24 RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Sentirsi come papà senza santi da pregare. si può fare ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua a 9:10 minuti, di nuovo buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi e da Ascoli, in collegamento, c'è Carlo? Ce l'abbiamo? Sì, signori. Eccolo sì, qua, signori. non ti sentivo, benissimo Carlo. E allora ciao da Ascoli Piceno, da Carlo Gabardini. Bene, 800 24 00 24, vi aspettiamo, anche perché stiamo cercando un personaggio della settimana che è coraggioso. Adesso però è arrivato il momento di rovesciare l'ordine delle notizie, cambiare l'immagine della settimana con 5 piccole buone notizie, vai! Si può five. Allora cominciamo al quinto posto. È una notizia che riguarda il nostro patrimonio artistico. Nuova luce per le stanze di Raffaella, Musei Vaticani. È stata inaugurata una nuova illuminazione che dà una visibilità mai vista, pazzesca, a tutti gli affreschi del grandissimo Raffaello. Un motivo in più quindi per andare a visitare le stanze di Raffaella, Musei Vaticani. Viva le bellezze italiane, viva il turismo. Vai Carlo. Al quarto posto i fari storici che avranno una seconda vita, ovvero 15 gioielli del mare, fari ed edifici storici abbandonati torneranno a vivere, perché saranno trasformati in piccoli hotel, ristoranti, musei, spazi culturali e per l'intrattenimento. Ovvero c'è stato il secondo bando promosso dal Ministero della Difesa e dall'Agenzia del Demanio e così ci saranno questi 15 fari che verranno ricollocati. Al terzo posto, siamo sul podio, siamo a Stoccolma, si trova a mezz'ora dalla capitale svedese il Retuna Recycling Gallery, il primo centro commerciale specializzato nella vendita di prodotti di seconda mano. Non è un semplice negozio dell'usato, come ce ne sono tanti, ma è un vero e proprio centro commerciale dove ci sono tutto: ristoranti, vestiti, computer, mobili, apparecchiature elettroniche, addirittura materiali edili. Tutto ha una seconda vita, una seconda possibilità. E sappiamo benissimo che questo è una cosa importantissima. Guardiamo in Svezia per queste belle notizie, ma anche noi siamo bravi perché Rossano Ercolini ce lo ricorda sempre. Secondo posto, una notizia che segue un filone che noi seguiamo sempre in maniera molto appassionata, ovvero i beni confiscati alla mafia. E al secondo posto c'è una notizia precisa, perché poi se ne parla spesso, ma la vera notizia è quando finalmente un bene di un mafioso viene convertito e viene reso qualcos'altro. Villa del Boss diventa casa alloggio per donne madri. Una casa alloggio, la notizia di Palermo, intitolata Rita Atria, nasce in un bene confiscato alla mafia a San Giuseppe Iato, dove abitava il capomafia Baldassarre di Maggio. Quindi siamo molto felici. E allora, al primo posto invece una notizia che si presta anche a speculazioni politiche, ma tant'è, il primo stato americano a prendere le distanze dall'America stessa, le Hawaii, hanno deciso di aderire comunque agli accordi sul clima di Parigi. E a noi ci è sembrato un bel segnale, perché si può anche essere sostenitori di Trump e allo stesso tempo essere sostenitori del pianeta e dell'ambiente. Quindi bravi quelli direi che ci facciamo tutta l'estate con le camicie hawaiane, è obbligatorio. Ok, questa era la classifica del Si può fare della settimana. 5 buone notizie. Andiamo con gli ascoltatori. Emilia da Padova, buongiorno, benvenuta. Pronto, buongiorno. Eccola qua. Buongiorno. Pronto. Eccola, Emilia, tocca a te. Felice di parlarvi, complimenti per la trasmissione perché vi seguo sempre. Grazie. Su cosa volevi intervenire, Emilia? Prego. Cosa volevi dirci, Emilia? Volevo dire che secondo me la notizia della settimana è che Don Lorenzo Nanni ha preso a pugni i ladri che erano... è stato coraggioso perché ha preso a pugno i ladri che erano... stanno ravvistando dei cassetti della camera da letto. Allora, circostanziamo un attimo questa notizia meglio, spieghiamola meglio, Emilia. È successo il 9 giugno, mi pare, sì. A Ronco Scrivia, sì. A Genova. E Don Lorenzo, ha sentito dei rumori in camera da letto, si è trovato davanti dei ladri, li ha presi a pugni e li ha fatti scappare. Ecco. Adesso però dice che... sì. Che gli perdona, insomma, ecco, è stato stato un po' come Don Camillo, no? Sì, sì, insomma, esatto, pensavo anch'io a Don Camillo e Peppone. Esatto, ha fatto notizia perché insomma si è detto anziché porgere l'altra guancia Don Nanni ha sfoderato. Infatti, il sacerdote dovrebbe farlo, però non sempre si può. Però insomma si è trovato l'altro in casa, per fortuna che è andata così, non peggio. Emilia, comunque grazie, ma non era lui il personaggio, non era lui. Anche siamo contenti di aver potuto ricordare questa notizia. Sì, sì, sì, coraggio sicuramente c'era. Stefano da Pistoia, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi, carissimi. Buongiorno. Un grande, diciamo, complimento a tutte e due per la compagnia che tenete a noi, diciamo, che lavoriamo anche la domenica mattina. Che lavoro fai, Stefano? In campagna. In campagna, bello. Vi teniamo compagnia nel senso che lavoriamo anche noi, questo è... Sì, lavorate anche voi, però è un bel, diciamo, supporto. Ascolta, Stefano, ma tu sei in campagna per fare l'orto come hobby o è proprio il tuo lavoro principale che fai anche la domenica? È il mio lavoro principale, io mi occupo della riproduzione delle piante da innesto. C'è un vivaio, lavori in un vivaio, che cos'è? Sì, ho un'aziendina mia, sì, che faccio riproduzione per innesto, e però faccio anche un pochino di orto, che quello non fa mai male, me lo tengo, insomma, ben curato qui da una parte, insomma. Cosa c'è adesso nell'orto in questa stagione? Pomodori? Allora, ancora no, siamo a limiti, diciamo, della maturazione. Ora si può trovare degli zucchetti, dei cetrioli... comunque del basilico, del prezzemolo, i pomodori ancora è un po' presto a dire te. Va bene. Ma quindi le piante si riproducono anche la domenica, cioè ti tocca lavorare anche la domenica? Allora, lavoro anche la domenica perché ho fatto un po' una scelta, diciamo così, di comodo, diciamo. Mia moglie lavora solo di sabato e domenica. E io cosa faccio solo? Niente, vengo a lavorare anch'io, mi prendo un giorno fra settimana e lo investo di domenica, diciamo. Lo prendo come se fosse... Stefano, però potresti anche andarti a fare una passeggiata in bicicletta, volta... andare a leggere il giornale al bar, come fanno tutti. No, tu sei lo fatto facevo, che... ma ora adesso... non lo sto... Sto bene qua, Maurizio, sto benissimo. Va bene, Stefano. Allora, cosa volevi dirci però? C'ho il personaggio della settimana. Sì, chi è? E lasciatemi andare in una toscanità, diciamo, linguistica. Il personaggio è l'anticiclone africano, perché più coraggiosi di lui non ce n'è, perché noi tutti gli anni lo combattiamo con condizionatori, con ventilatori, con ventagli, con le bibite ghiacciate, ma lui nulla, lui ci torna tutti gli anni a trovare e sempre più carico, quindi io ritengo sia il personaggio della settimana. Ma sei straordinario, però non so se è più coraggioso lui o più coraggiosi noi anche a sopportarlo, però in effetti. Ma perché è ufficialmente arrivato l'anticiclone africano? Possiamo dirlo? La notizia c'è? Sì, è arrivato, dovrebbe entrare fortemente da oggi. Già qui nella nostra campagna si presume di toccare i 38 gradi nel giro di pochissimi giorni, però ormai siamo abituati e lo accogliamo sempre, diciamo, con molta grazia, insomma, ogni tanto scappa anche eresia, ma insomma, scappa qualcosa che non si può dire. Va bene, Stefano. È stato il più bello spot a un anticiclone che io abbia mai sentito nella mia vita, quindi se nessuno dovesse indovinare il personaggio della settimana, direi che sei candidato comunque a un premio minore. Glielo diamo ad onore, ma eventualmente, perché non era questo il personaggio a cui avevamo pensato, però in effetti Stefano non era male questa dell'anticiclone. Noi cerchiamo un personaggio coraggioso, c'è ancora tempo naturalmente, fino alle 10:00 24:00 24, dopo le informazioni sul traffico torniamo e magari diamo anche un secondo indizio se non indovinate. Vai! Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, 9:20 minuti, cari ascoltatori, sì, è arrivato il momento di dare un secondo indizio ed è un incarico tuo, Carlo. Ma certo, il personaggio che stiamo cercando è sportivo, quindi il primo indizio era coraggioso, il secondo indizio è sportivo. Benissimo, 800 24 00 24, adesso sentiamo un paio di voci di questa settimana sulle notizie principali che riguardano il pasticciaccio, vogliamo chiamarlo così, del sistema elettorale. Sentiamo Toninelli del Movimento 5 Stelle e poi Renzi. se in quest'aula ci sono dei vigliacchi e se in quest'aula ci sono degli irresponsabili, questi appartengono al Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle ha dichiarato che avrebbe votato a favore di un emendamento di equità che applicava la norma del cosiddetto modello tedesco anche al Trentino, e l'abbiamo fatto. I nostri voti non dovevano fare cadere questa legge perché voi avete una maggioranza bulgara. E allora, questa era Toninelli, sentiamo anche Matteo Renzi. Io personalmente direi no comment su questa notizia, perché se ne è parlato tutta io la direi settimana. No comment. Basta, esatto, vai, sentiamo Renzi. Se ci sono le condizioni per fare tutti insieme una bella legge con Forza Italia, con 5 Stelle, se improvvisamente le persone tornano al buonsenso e alla ragionevolezza, lo vedremo. Permettetemi di non essere particolarmente ottimista su questo tema. Allora, è accaduta ancora, è una cosa terribile. Se avete dei bambini con voi in questo momento in macchina o in giro, tappate le orecchie e cambiate stazione, perché la notizia è quella che viene da Arezzo. Lo sappiamo, purtroppo una bambina molto piccola è stata dimenticata in auto dalla mamma. Quando la mamma se ne è ricordata, era troppo tardi. Eppure però, come è stato ricordato, esiste una tecnologia, si è aperto tutto un dibattito se si tratti di dissociazione psicologica, di annullamento della personalità o di cose ancora più gravi, ma esiste una tecnologia molto semplice che potrebbe rendere i seggiolini dei bambini seggiolini salvavita in tutti i sensi. Noi abbiamo con noi Michele Seravalli, che è il fondatore di Remmy, amministratore delegato anche. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Una società che produce che cosa? Questa nuova tecnologia, che in realtà è una tecnologia semplice, una tecnologia italiana che voi avete inventato quanto tempo fa, Seravalli? Allora, noi abbiamo realizzato Remmy nel 2013 dopo il caso di Piacenza, quando l'albanese purtroppo fu vittima di amnesia dissociativa e per questo il piccolo Luca morì. Sentita la notizia e dato una soluzione, non c'è, e visto che non c'è nulla sul mercato, non c'era nulla sul mercato per questo tema, ci avete pensato deciso, voi? Sì, abbiamo deciso di non rimanere con le mani in mano, perché sì, nel 2013 non si può morire per un fatto di questo caso, per un fatto di questo tipo, per cui in 4 mesi abbiamo messo in piedi la startup e dal 4 novembre 2013 siamo online e abbiamo iniziato a vendere. Quindi adesso i kit esistono, si vendono, sono in commercio. Assolutamente. Come funziona? È molto semplice, come ha detto lei, l'idea è tanto semplice quanto efficace. C'è un sensore di pressione che va messo sotto la fodera del seggiolino e di fatto rileva la presenza del bimbo. Sì. E dall'altra parte c'è una presa senza sigari che si mette dentro appunto la presa, e tramite una centralina noi leggiamo la tensione della batteria. Remmy ha due funzioni sostanzialmente. Una è se il bambino si slaccia, si sfila le cinture o anche solo è legato male, quindi può muoversi, sì, il sensore di pressione perde il contatto e avvisiamo il conducente, il genitore, che bisogna fermarsi per ripristinare le condizioni di sicurezza. Ecco, e la seconda funzione è proprio quella di ricordarci e svegliarci da quell'ipnosi in cui tutti noi entriamo quando siamo in macchina, e appena arriviamo a destinazione e spegniamo l'auto, se c'è il bambino suona. Di fatto è il contrario delle cinture di sicurezza. Certo, ma quanto costa questo kit, tanto per farsi un'idea? Costa 60 euro la versione singola e 80 euro la versione doppia, quella per due seggiolini nella stessa auto. Senta, ma spese di c'è lo sconto gemelli? Sì, per i gemelli o anche due fratellini. certo. E qualcuno ha ironizzato sul fatto, sì, ma figuriamoci se diventi un bambino addirittura due. Non sempre siamo in macchina con entrambi i bambini. No, e soprattutto va ricordato che è una cosa che può succedere a tutti, perché questo è più che accanirsi, perché penso che le madri e i padri a cui accade di perdere un figlio in questo modo non se lo perdoneranno mai, ed è veramente una cosa che può succedere a tutti. Non è che sono genitori snaturati che parcheggiano i figli in macchina, perché assolutamente. Io non sono medico, non sono psichiatra, ma ho sentito e letto centinaia di dichiarazioni, tutto il mondo scientifico è concorde su questo, e purtroppo c'è il pregiudizio che porta tante persone a dire: a me non potrebbe mai capitare, amo troppo il mio bambino. Certo. Io ho parlato, con centinaia di persone a cui è successo, e nella maggior parte dei casi fortunatamente non si è arrivati alla tragedia. Ma quanti ne avete venduti, Seravalli, di questo kit? Vendiamo Servalli, mi scusi. Servalli, scusi. Migliaia di bambini oggi viaggiano più sicuri grazie a Remmy, e purtroppo solo quelli che hanno i genitori che non si ritengono infallibili. Ecco, perché questo è il punto, no? C'è una tecnologia italiana, è stato detto più volte, è stato ricordato, però c'è anche una proposta di legge, e qua veramente non capiamo, una proposta di legge in Parlamento ferma dal 2014 che con una semplice modifica del codice della strada renderebbe obbligatorio, così come ci sono già i seggiolini salvavita, le cinture di sicurezza eccetera eccetera, anche un dispositivo di questo tipo, non necessariamente il suo, ce ne sono anche altri, noi abbiamo chiamato voi perché siete stati tra i primi a partire, quindi basterebbe una proposta di legge, una legge di un articolo, uno, per rendere obbligatorio questa cosa, che avrebbe un costo, lei ce l'ha detto, 60 euro, ma probabilmente se fosse industrializzato costerebbe anche di meno, e però è ferma dal 2014, è una cosa incomprensibile, sinceramente. In realtà sono 6 le proposte di legge che già sono in Parlamento in attesa di essere discusse, e in alcune di queste indirettamente ci citano, perché dicono a un certo punto i sistemi esistono in commercio, bisogna renderli obbligatori proprio per proteggere anche i bambini di quei genitori che non si ritengono fallibili. E chiaramente non ci citano perché giustamente non può essere una legge fatta a favore di Remmy. Una legge che deve essere fatta certo, per tutti. Sapendo che esiste uno standard tecnologico, una tecnologia che lo consente, basta prevederla per legge, effetti, poi che lo si faccia in un modo o nell'altro non cambia. Lei ha conoscenza, Servalli, se in altri paesi d'Europa, nel mondo, se ci sono delle cose? Nel mondo ci sono decine e decine di prototipi, brevetti, per di prodotti che possono affrontare questo problema. Noi, se abbiamo un merito, è il fatto di averlo realizzato, quindi oggi è l'unico prodotto disponibile. In termini di legge si sono fatte delle petizioni anche in altri stati per chiederne l'obbligatorietà, soprattutto penso agli Stati Uniti, dove ogni anno muoiono circa 40-45 bambini per questo motivo. Le volevo chiedere una cosa, nel senso che non dovrebbe essere sufficiente che, parlando di questo problema, le persone che sanno, che fanno un certo tipo di vita, comprino questo dispositivo? Cioè, l'unica possibilità è metterlo obbligatorio, perché va anche ricordato che di cose obbligatorie, soprattutto per la questione dei figli, ce n'è tantissime. Uno deve avere il seggiolino, se uno ha 4 figli, i 4 seggiolini non ci stanno in nessuna macchina. Cioè, 60 euro è vero che può essere non una cifra incredibile, però comunque si vanno ad aggiungere a un sacco di altre spese. Ma io non sono assolutamente d'accordo con lei, non dovrebbe essere obbligatorio. Il fatto però è che molte persone non riescono a superare il pregiudizio che certe cose a te non possono capitare. Certo, perché è un po' come il discorso delle assicurazioni, che poi uno non lo fa mai. Esattamente. Per cui sarebbe sbagliato obbligare le persone a fare delle cose, però se queste cose non vengono fatte perché la gente non ritiene possibile che possa succedere, anche a fronte di informazioni, muoiono circa 100 bambini l'anno, per questo motivo. Certo, ma c'è il pregiudizio, c'è, ha ragione lei, ha ragione lei Servalli, il pregiudizio c'è, basta parlare con chiunque, genitori che molti storcono il naso. Io posso raccontare, per quanto mi riguarda, un piccolo episodio, probabilmente sarò io una persona terribile, ma a me è capitato non di lasciare mia figlia in macchina, per fortuna no, ma di dimenticare mia figlia piccola all'asilo, alla scuola materna. Sono andato ad accompagnare la grande con la piccola, lasciato la piccola nell'atrio come si fa nel suo passeggino insieme a tutti gli altri, poi mi sono uscito dalla scuola, andavo al lavoro e ho lasciato la piccola nell'atrio della scuola materna, non è successo nulla. E sei andato a riprenderla quando ormai era laureata. Esatto, più o meno sì, abbiamo festeggiato insieme e quindi può, credo che delle amnesie del genere possano veramente succedere. Guardi, le do un altro dato che è emblematico: un genitore su quattro in forma anonima ammette che almeno una volta gli è successo. Lo fa in forma anonima perché c'è molta vergogna anche a dirlo, okay? Anche ad ammettere che sia successo. E nella maggior parte dei casi, ovviamente, visto questo dato, tutto si risolve fortunatamente con un gran spavento o uno shock psicologico del genitore. Perché il caso tipico è questo: arriviamo a destinazione, scendiamo, abbiamo necessità di accedere dietro per prendere il computer, il cappotto, il cappello, e ci rendiamo conto di non esserci fermati all'asilo. Allora, voglio rispondere, mi scusi, Servaglia, un ascoltatore, perché l'argomento sta prendendo, che al 349-238-6666 su WhatsApp, Maurizio da Bolzano dice: ben venga la tecnologia per ricordare il bambino, però vi prego, basta obblighi, salvaguardiamo anche l'autonomia di decidere. Allora, tutto quello che vuole... L'autonomia di decidere... No, però scusi, mi faccia dire un attimo una cosa, il seggiolino è già obbligatorio, è già un obbligo, no? Ed è un salvavita, lo sappiamo benissimo. Allora, nel momento in cui questo già lo dobbiamo fare, basta inserire all'interno questa tecnologia e non c'è nessun aggravio reale in più, un obbligo in più. Questo volevo dire. Servalli, prego. L'obbligo nasce nel momento in cui io faccio qualcosa che mette a repentaglio la vita di altri, se poi è un bambino addirittura è una roba pazzesca. Ma le volevo chiedere un'altra cosa, perché prima ci spiegava come funzionava: nell'istante in cui il genitore o diciamo il guidatore si alza dal suo posto, scatta l'allarme? No, scatta esattamente nel momento in cui spegniamo l'auto, perché c'è una variazione di tensione per cui il nostro dispositivo interpreta lo spegnimento e per cui inizia a suonare. Nella maggior parte perché mi chiedevo, di solito uno magari 5, cioè può succedere che uno debba scendere dalla macchina e lascia il bimbo, adesso sto dicendo probabilmente una cosa terribile, però magari deve andare a aprire il cancello e lo lascia 3 minuti in automobile. Non diciamolo, perché allora, sono due cose diverse, però capita anche quello. Sempre nella stessa statistica, dice che il 14% degli intervistati ritiene una cosa normale lasciare il bambino in auto da solo, anche solo per svolgere una breve commissione, un minuto. E invece andare non va assolutamente fatto. Andare a pagare, per esempio, il carburante quando vai a svendire. Invece non va fatto perché? Ma non è un buon momento per tirar fuori il bambino in una stazione di servizio? Infatti, sì. Io seguo decine e decine di gruppi di mamma dove consiglio su quello che riguarda la sicurezza in auto, in generale, non tanto questo è il problema dei bimbi lasciati in auto, non dimenticati. E ci si organizza, avere un bambino è complicato, si va in una stazione di servizio dove puoi pagare a fianco dell'auto, così non lo prendi sott'occhio. Questo è un caso, ma ci sono altre mille casi: va in lavanderia, va a ritirare, a prendere il giornale. Va bene, non si deve fare perché può capitare qualsiasi cosa, ed è capitato che invece che mettersi 2 minuti succede qualcosa e quei 2 minuti diventano 20, 30, 50. Io voglio chiudere, la ringrazio Michele Servalli, fondatore di Remmy, voglio chiudere rilanciando questo appello, possiamo persino al Parlamento, possiamo persino sorridere della settimana della follia dell'accordo mancato, prima salutato, poi mancato sulla legge elettorale, però il Parlamento serve a fare le leggi, questa piccola modifica del codice della strada che con un aggravio di obbligatorietà veramente minimo e con un costo irrisorio, perché 60 euro su scala industriale, se prodotto su scala industriale, costerebbe anche meno, potrebbe salvare le vite di alcuni bambini. Grazie Servalli, buona domenica. 800 24 00 24 Parlamento, renditi utile, batti un colpo su questo. Carlo, tutto bene, le ad Ascoli? Tutto benissimo, stavo semplicemente pensando a mia mamma che dei figli ne ha 5 e se avesse avuto addirittura l'obbligo di avere 5 dispositivi. È vero. Insomma, è vero, è vero che 5 seggiolini, per esempio, in una macchina non ci sta. No, non ne faccio infatti solamente la questione di costi, ma ci vuole un pullman in quel caso, ci vuole un pulmino, ci vuole un pulmino. Oppure non si va tutti insieme. Sono abbandonato anche in macchina io per qualche minuto. E lì si spiegano tante cose. 800 24 00 24, tra poco torniamo dopo la pausa con gli ascoltatori, perché stiamo anche cercando un personaggio della settimana. Vogliamo assegnare il libro di oggi, è un personaggio coraggioso e, Carlo, pronto? Sportivo. È sportivo, vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. What the country needs more than ever is certainty. And having secured the largest number of votes and the greatest number of seats in the general election, it is clear that only the Conservative and Unionist Party has the legitimacy and ability to provide that certainty by commanding a majority in the House of Commons. We will continue to work with our friends and allies in the Democratic Unionist Party in particular. Questi erano 28 secondi di corso di inglese con Theresa May. Theresa May, incredula, sconcertata, non so come dire, riparte, più debole di prima, ma riparte. E con lei gli inglesi, chissà in quale direzione. 800 24 00 24, è il momento degli ascoltatori. Abbiamo Gianni che ci chiama da Cremona. Gianni, vai. Sì, buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Complimenti, lo devo dire, come lo dicono tutti, no, effettivamente è vero, complimenti. Grazie. Per la missione, siete molto in gamba, insomma. Ascolti, posso? Sì, certo. Sì, ha chiamato per secondo quello. Secondo me sì. È Alex Honnold, quello scalatore americano che ha scalato, un free climber, che ha scalato la parete verticale di 900 metri del Capitan in California, oggi, Yosemite Park, mi sembra. Sì, e forse addirittura anche senza corde. Sì, in libera proprio. In libera. Non fatelo mai, amici dell'arrampicata, non fatelo perché non si fa, diciamo. Coraggioso e sportivo assolutamente, è una grande notizia di questi ultimi giorni, Gianni. In effetti, Carlo, tu conoscevi l'impresa di questo arrampicatore? Certo, ho visto anche il video, è impressionante, però ripeto, non fatevi venire in mente strane idee, perché non vuoi mettere obbligatorie anche le corde per le scalate, questo che vuoi dire? Io lo so che adesso chiameranno gli ascoltatori. No, ci vorrebbe sale in zucca, ci vorrebbe sale in zucca per non fare mai roba di così. Comunque, ognuno fa quello che vuole nella propria vita. Gianni, giusto. Però non era lui, in effetti, il personaggio. Non era lui. Proviamo con Piero, che chiama da Monte Carlo. Vai, Piero. Buongiorno a tutti, buona giornata. Ma da Monte Carlo, in provincia di Lucca? No. Da Monaco, Monte Carlo. Da quello vero. Dalla barca. Sono in barca, sto pescando, sto cercando di pescare. Io mi alzo e me ne vado. Ciao. Scusa, dell'invidia, però. Dalla barca di Monte Carlo sembra una gag. Però scusa, Piero, non è possibile. Dacci una prova tangibile che sia vero quello che dici. Dunque, vediamo un po'. Facci sentire uno schizzo d'acqua, non lo so. Lo schizzo d'acqua lo si trova anche in una vasca da bagno, no. Però, hai ragione. Cos'era questo? È il taxo della banca. No, è fantastico. Beh, questo è già una bella prova. È buono, garantisco. Vai, Piero, vai. Sto cercando di pescare, perché pescare è zero. Ma cosa peschi? Secondo me ci sono 60 milioni di italiani che sperano che lei non indovini il personaggio della settimana, così la sensazione. È difficile comunque. Le chiedo scusa, ma non volevo ovviamente portare sfortuna. Ma che pesci? Un pescatore non si porta sfortuna se non lo si augura buona pesca. Ecco, esatto, ma che questo non glielo dico. Scusate se mi permetto, Piero, a pesca di che cosa vai? Che tipo di pesci? occhioni, sto pensando su un fondale di 300 metri. Pensavo cose straordinarie, una barca a Monte Carlo, il nasello, vabbè, un banale nasello, va benissimo, Piero. Sono uno normalissimo. Dici tutto, dici tutto, dici tutto, Piero. Allora, secondo me uno molto coraggioso e anche sportivo è Gianni Morandi. Perché Gianni Morandi ha avuto il coraggio? Beh, intanto è un capitano coraggioso, mi pare che abbia fatto una trasmissione anche recentemente. Sì, sì. E poi ha avuto il coraggio di incidere, di mettersi a cantare insieme a Rovazzi. Ecco lo scavezzacolli. Il video con Rovazzi. Che non è proprio una cosa da tutti. Vero, verissimo. Però, non è la notizia di questa settimana, a voler essere precisi. In effetti è vero, cioè, perché il video è uscito non prima. So a Monte Carlo, forse a Monte Carlo è arrivata un po' dopo, no. Ma comunque non era lui. Beato te, divertiti, pesca anche per noi. Non era Gianni Morandi, è un altro, esatto, il personaggio coraggioso e sportivo che stiamo cercando. 800 24 00 24, siamo anche lontani, è vero Carlo? Dalla notizia. Volevo comunque ringraziare l'ascoltatore per aver chiamato, assolutamente. Siamo lontani però. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. E avrete già capito, sulle note, Leonardo Martinelli da Parigi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, carissimo Leonardo, noi ti abbiamo convocato perché abbiamo letto questo titolo sui giornali: la rivoluzione francese, basta con i compiti a casa, a scuola. È un tema questo che ritorna, almeno in Italia va e viene, ma senza concretezza, senza fondamento. Leggiamo che invece il ministro dell'istruzione del nuovo corso Macron, Jean-Michel Blanquer, questa volta fa sul serio, stop compiti a casa. È così? Ci vuoi circostanziare questa notizia? Ma sì, va un po', diciamo, contestualizzata, sì, perché in realtà diciamo che c'era tutto un dibattito qui, come anche in Italia, in altri, sì, paesi, appunto sui compiti a casa, e la sinistra che ha governato finora la Francia aveva praticamente eliminato i compiti. Va detto che in Francia si va a scuola molte più ore che in Italia, cioè certe volte i ragazzi anche del liceo escono alle 6 di pomeriggio, quindi c'è anche meno tempo per fare i compiti. Ora invece, con il nuovo corso di Macron, questo Jean-Michel Blanquer, che è appunto il nuovo ministro della pubblica istruzione, ha detto no, reintroduciamo i compiti, però li facciamo fare a scuola praticamente con un doposcuola. Questo anche per eliminare le differenze tra le famiglie, differenze sociali, perché questa è una cosa che va detta, no? Io lo dico alle ascoltatori che ci stanno sentendo e che magari invece non saranno tra quei genitori, quasi molti sono d'accordo su questa cosa perché è un aggravio, no? Per i genitori. Altri dicono beh, ma insomma la scuola così diventa troppo permissiva, non si fa nulla. No, non è questo il punto. Poi naturalmente insegnanti e pedagoghi di tutto il mondo diranno la loro. Il punto è che in effetti se tu a casa non hai nessuno che ti aiuta a fare i compiti, probabilmente fai più fatica, no? E quindi è anche questo uno dei punti a favore di questa battaglia, di questa campagna stop compiti a casa, perché poi tocca ai genitori, no? Dare una mano, e quando i genitori non hanno gli strumenti per farlo rischia di essere di aumentare le disuguaglianze, questa cosa qua, no Leonardo? Quindi, sì, no, questo sicuramente. Certo, se faccio un confronto appunto tra la Francia e l'Italia, io ho dei figli grandi ma che hanno fatto comunque il liceo francese, forse ci sono proprio un po' due estremi, nel senso che da quello che sento in Italia spesso, soprattutto al liceo, le direzioni a casa ce n'è veramente tantissima. Eh sì, è per questo che qua siamo sensibili. In Francia non si fa nulla, a casa si faceva nulla. Se posso dirlo, il livello medio di preparazione di un liceo francese è comunque più basso di quello di un liceo italiano, cioè nel tempo si è deteriorata la scuola pubblica francese. Quindi hanno solo la causa di questo. Fare i compiti serve. Non lo so, io non sono un pedagogo, però quello che posso dire è che spesso il livello diciamo, della scuola, del liceo, di un liceo pubblico francese è mediamente più basso di un liceo, non sto parlando di scuole professionali tecniche, di un liceo italiano, ma questo chi fa un consumo è l'unico a dirlo, insomma. Mi ricordo, certo, di aver, ho intervistato per la stampa un filosofo conosciuto in Francia che è Marcel Gauchet, che insegna alla Sorbonne, che quindi riceve degli studenti, diciamo, dei primi anni universitari italiani, e lui era estasiato dalla preparazione, diciamo, nel suo settore, la filosofia, e diceva: voi in realtà a forza con la vostra inerzia avete mantenuto uno dei migliori licei d'Europa, non avete fatto riforme, e quindi invece noi in Francia si fa una riforma ogni anno, praticamente si cambia tutto continuamente, quindi lui diceva alla fine, poi lui che è fra l'altro anche abbastanza vicino alla sinistra, diceva ora il livello poi si è abbassato molto, quindi diciamo che è un discorso molto complesso. Comunque noi ci fermiamo al dato di cronaca, apprendiamo, certo, che il neo ministro dell'istruzione ha queste idee e sta valutando appunto la possibilità di farli fare a scuola, comunque di non farli fare a casa i compiti, perché non tutti i bambini hanno lo stesso aiuto da parte dei genitori. A partire da questa preoccupazione, un dibattito eterno, e non sicuramente non finirà qua. Ma la legge è stata approvata o Leonardo siamo ancora lì alle... No, l'ha fatto con un decreto, quindi è approvato, e devo dire che è un po' il riflesso di questo pragmatismo che c'è con Emmanuel Macron e con il suo governo, anche di applicare un certo buonsenso invece di, sì, ideologizzare per forza la scuola, e questa devo dire che è una cosa positiva, ecco, tutto sommato. Questo ministro sta prendendo tutta una serie di provvedimenti che secondo me li ha copiati dalla scuola italiana, nel senso che qui non si va a settembre, diciamo, non ci sono corsi di recupero durante l'estate, lui li vuole introdurre, uno dei suoi grandi cavalli di battaglia. La maturità in Francia si fa su tutte le materie, praticamente su tutto e niente, e invece lui vuole concentrarsi su quattro materie. Quindi devo dire che qualcuno dice che l'ha copiata la scuola. Poi è un appassionato della Montessori, uno dei più grandi esperti francesi della Montessori, quindi secondo me questo ministro sta copiando la scuola italiana praticamente. Ah, colpo di scena. Copiata da Hollande. Qualcuno dice che questa è un po' la fotocopia della riforma che l'amministrazione Hollande voleva portare a termine. Non è così? No, guarda, questo sinceramente no, perché la Hollande ha portato avanti una riforma soprattutto delle scuole medie, che sono l'anello debole della scuola francese, come un po' in fondo di tante scuole europee. Diciamo che l'orientamento era completamente diverso. Va bene, ci dobbiamo fermare qua, abbiamo le informazioni sul traffico, siamo lunghissimi. 800 24 00 24 per gli ascoltatori. Ciao Leonardo. Ciao, buona domenica, ciao. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Andiamo subito con Susanna che ci chiama da Lecce. Benvenuta, Susanna. Buongiorno. Buongiorno a te, prego. Buongiorno a tutti in studio. Allora, noi abbiamo un'idea, abbiamo pensato al tifoso del Millwall, Roy Lerner, il tifoso che ha attaccato a mani nude i terroristi dell'ISIS. Sì, ci vuoi circostanziare meglio la notizia? Allora, durante gli attacchi di London Bridge, tre tifosi dell'ISIS entrati in un pub sono stati affrontati dal terrorista che ha gridato "fuck a Millwall", insomma, e ha reagito molto coraggiosamente. Ah sì, ha issato il vessillo del Millwall, solo con quello si è difeso andando a mani nude contro i terroristi, e ci è sembrato un personaggio, un si può fare, straordinario. Grazie Susanna, ti porti a casa il libro. Grazie. Di oggi verrai contattata dal nostro centralino per questo. Abbiamo pochissimo tempo, Carlo, però dobbiamo lanciare una impresa impossibile, un'impresa, ci piacciono le imprese straordinarie, qua l'impresa musicale che vogliono realizzare quelli dell'Officina Musicale a Campo Imperatore, il piccolo Tibet d'Abruzzo, ce la racconta Orazio Tuccella. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, abbiamo poco tempo, però ti diamo un minuto e mezzo per spiegare tutto. Vai. Dunque, come avete detto, un'impresa impossibile, perché se pensate non c'è nemmeno la corrente elettrica, per cui dobbiamo portare a 1600 metri nel Parco Nazionale del Gran Sasso ai Monti della Laga un tendone da circo che può ospitare, quest'anno abbiamo pensato a un tendone da 1400 metri quadri, perché l'anno scorso abbiamo fatto una prima edizione, chiamiamola così, di un... Quando, Orazio, quando? Dici la data, ce l'hai già la data? È caduta la linea. Forse è caduta la linea. Eccolo qua. Come? Eccolo. No, non ce l'abbiamo più. Peccato. Ai ai ai ai ai. Allora, l'obiettivo è quello di portare l'officina musicale a eseguire ancora con strumenti sinfonici i pezzi dei Pink Floyd. Un appuntamento musicale molto originale, di nicchia, se volete, ma che si svolge in una zona già colpita dal terremoto e in un posto meraviglioso come è Campo Imperatore. Tutti i dettagli trovate sulla pagina Facebook, perché loro chiedono di Si Può Fare, e anche sul sito di Radio 24 alla pagina di Si Può Fare loro chiedono un aiuto economico, un crowdfunding. Carlo? Sì signori, qui. Salutami tutti di Ascoli, noi ci rivediamo in studio sabato prossimo? Assolutamente sì, certo che ci vediamo in studio. Molto bene. Io dagli studi di Ascoli Piceno, in realtà sono ospite a Palazzo Guido Rocchi e ringrazio Grazia che mi ha anche stampato le notizie. Fantastico. Quindi facendo risparmiare della carta a Radio 24. E ciao a tutti, grazie, ciao, buona domenica.